Ecco, dolce Signore, ho girovagato per il mondo e per le cose del mondo, perché tutto ciò che è nel mondo, come dice chi ha conosciuto i tuoi segreti, o è concupiscenza della carne, o concupiscenza degli occhi, o superbia della vita. In queste cose ho cercato il riposo per la mia anima infelice, ma dovunque ho trovato fatica e lacrime, dolore e afflizione dello spirito. Hai gridato, Signore, hai gridato, hai chiamato, hai atterrito e distrutto la mia sordità, hai picchiato, frustrato, e hai vinto la mia ostinazione, hai addolcito, insaporito e fatto uscire la mia amarezza. Ho udito, ma ahimè, ho udito tardi che mi chiamavi. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io, tendi la destra all'opera delle tue mani. Giacevo infatti sporco e accartocciato, legato come uno schiavo, irretito nel vischio di una cattiveria tenace, oppresso dal peso di un'abitudine inveterata. Perciò ho cominciato a guardare a me stesso, a vedere chi ero, dov'ero, che cosa ero. Sono inorridito, Signore, e mi sono ritratto spaventato davanti alla mia faccia. Rincuteva terrore la tetra immagine della mia anima infelice. Non piacevo più a me stesso perché mi piacevi tu. Volevo fuggire via da me, fuggire da te, ma era trattenuto in me. Mi trattenevano, come dice qualcuno, le frivolezze delle frivolezze, la vanità delle vanità, mia vecchia amica. Mi teneva legato la catena della mia pessima consuetudine, mi avvinceva l'amore per quelli del mio sangue, mi stringevano i vincoli dell'amabilità dei miei compagni, soprattutto il nodo di un'amicizia che per me era più dolce di tutte le dolcezze della mia vita di allora. Queste cose mi davano gusto e piacere, ma tu di più. Considerando infatti una per una queste cose, mi accorsi che quelle amare si mischiavano con quelle dolci, le liete con quelle tristi, e le prospere con le avverse. Mi piaceva la gradevole unione dell'amicizia, ma sempre temevo che un'offesa la guastasse, ed ero comunque certo che in futuro sarebbe arrivata la separazione. Ho considerato gli inizi di quelle gioie, ho fatto attenzione al loro sviluppo, ho guardato in prospettiva la loro fine. Vidi che gli inizi non erano del tutto irreprensibili, che nello sviluppo non poteva mancare l'offesa, né la condanna alla fine. Il pensiero della morte mi gettava nel terrore, perché dopo la morte un'anima così era garantito il castigo. E dicevano gli uomini, considerando quello che stava attorno a me, ma non sapendo quello che stava capitando in me, ma come gli va bene, come gli va bene. Ignoravo infatti che a me andava male, proprio là dove solo avrebbe potuto andarmi bene. La mia piaga infatti era molto nascosta, mi tormentava, mi spaventava e corrompeva con un fetore intollerabile tutto il mio mondo interiore. E se tu non mi avessi dato presto la mano, non sopportandomi più, avrei forse fatto ricorso al rimedio pessimo che offre la disperazione. Cominciai dunque a congetturare, per quanto potevo da inesperto qual ero, anzi, per quanto tu me ne concedevi la grazia, quanta gioia c'era nell'amarti, quanta tranquillità si accompagnava a questa gioia, a quanta sicurezza nascesse da questa tranquillità. Chi sceglie di amarti non erra, perché non esiste niente che di te sia meglio. La sua speranza non va delusa, perché niente può essere amato con maggior frutto. Non si deve temere un eccesso nella misura, perché nell'amore per te non è prescritta alcuna misura. Non si ha paura della morte che distrugge l'amicizia mondana, perché la vita non muore. Nell'amore per te non si teme offesa, perché non v'è alcuna, a meno che non si abbandoni l'amore. Non interviene alcun sospetto, perché tu giudichi secondo la testimonianza della coscienza. Qui è la gioia, perché il timore è escluso. Qui è la tranquillità, perché l'ira è frenata. Qui è la sicurezza, perché del mondo non si tiene conto. Poco a poco hai cominciato a diventare saporito per il mio palato, anche se non ero ancora guarito, e dicevo, oh, se guarissi, ero rapito verso di te. Ma di nuovo ricadevo su me stesso, e mi tenevano come stretto in ceppi quelle cose che nella mia carne sentivo con piacere in forza di una certa consuetudine. ma di più mi piacevano le cose che l'animo intuiva in forza della ragione. E dicevo spesso, anche parlando ad altri, dove sono, ditemi, tutti i nostri piaceri, tutte le voluttà, tutte le gioie che finora abbiamo goduto, ora, in questo momento, che cosa proviamo? Tutto ciò che è stato fonte di gioia ora è svanito, di tutto questo rimane solo qualcosa che punge la coscienza, che incute il timore della morte, che ci condanna all'eterna dannazione. Paragoniamo, vi prego, a tutte le nostre ricchezze, a tutti i piaceri, a tutti gli onori, quell'unica cosa che hanno i servi di Cristo, che non temono la morte. Queste parole mi davano spesso un'idea scadente di me, e ogni tanto piangevo, con un'amarezza che mi spezzava l'anima. Tutto quello che vedevo aveva perso valore, ma l'abitudine al piacere carnale mi opprimeva. Ma tu, che odi il gemito dei prigionieri e liberi condannati a morte, hai spezzato le mie catene. Tu che offri il tuo paradiso alle meretrici e ai pubblicani, mi hai convertito a te, io che ero il primo di tutti loro. Ed ecco che sotto il tuo giogo io respiro e mi riposo sotto il tuo carico, perché il tuo giogo è soave e il tuo carico è lieve.